il galletto fa chicchirichi, tutti a tavola ci si troverà, sarà sabato pure domenica, col vestito che sa di bucato e le scarpe di vernice blu. Non si scorda.